basta. Io sarò l'amore e basta. Non parlare mai da cosa fai con mio dolore. Chita che la sai da vai con sto aita. Una via da dire che se parte con sole. Fui da una toi durata in cui io la messa la cloda. Numerossa. Laulu on siis nimeltään. Kun olet poissa.